Q10, CQ canale 10. Ciao Claudio. Perché sei tutto così amplificato? Ma che radio è? No, non mi piace, la modulazione è forte, però sembra che sei dentro un tubo, dentro, come ti posso dire, dentro una grotta, tutto rimbombante. Adesso non ti sento più. No, non è bella la modulazione, mi dispiace dirtelo, è molto amplificata ma è tutta distorta, non è pulita, non è naturale assolutamente. Sembra che stai parlando dentro un tubo, cioè presente tu quando parli in un tubo, tutto rimbombante, una specie di riverbero, cioè, e quel microfono non si addice, prova se ce n'è un altro, magari anche palmare, vediamo se dipende dal microfono. Registrato. Buonasera. Buonasera, ho salutato comunque. Un attimo Gianni. Falcone 2 la vendetta. Segnale 6910 lo superi, però ti ripeto, è come che stai parlando da lontano, dentro da un'altra stanza. La modulazione non è assolutamente pulita, è intubata, è tutta non è bella, te lo ripeto, veramente devi provare con un altro microfono. Comunque c'è anche Gianni, doppio numero, facciamo entrare, vieni avanti. Avanti Gianni per i saluti. Ehi, allora, saluto tutti cordialmente, ciao, che ho da Ruggirito, stavo aspettando che finisci di parlare per entrare, dai. Poi c'è stato qualcuno che ha salutato, facciamo entrare, ciao anche a te Robert, c'è qualcun altro che ha salutato, vediamo un po' chi è, avanti. Se mi fate entrare io entro, se no non entro, ma se... Ah, tu Luca, pensavo che fosse Gianni che avesse aumentato la potenza, scusa Luca, ho visto solo il segnale senza rendermi conto. Ciao, ben sentito, c'è anche Claudio da Muros e Gianni, facciamo riprendere a Muros che poi saluterà entrambi, vai Muros. Ciao Luca, ben sentito anche a te, dai. Vabbè, ho sentito che hai salutato, però non avevo capito di ritura. Riprendi Luca, riprendi e fai girare tu. Ciao Claudio, ciao Roberto, ciao Gianni. Non ho capito cosa ha detto prima Roberto, aumentato Gianni, cosa ha detto Roberto, non ho parlato io, chi è aumentato? No, allora io ho sentito a Gianni, ha detto break, ha detto un attimino registrato, poi ho sentito buongiorno o buonasera, non mi ricordo, ha detto buonasera, ho salutato, e pensavo che fosse Gianni che per farsi sentire come che non l'avessi sentito avesse aumentato, invece eri tu, la confusione è nata da lì. Comunque mi hai sentito Luca e avanti a te. Volevo dire a Claudio se mi sente, Claudio mi senti? Va bene, dai, tu idem, non è che ti ascolti bene, comunque ti ascolto, tiro fuori tranquillamente, dai. Va bene, avanti Gianni, riprendi. Dai, ditemi come sto uscendo con questo microfono, che gli ho adattato un microfono che ci avevo sul coso, sul Midland, quello modificato, dove avevo cambiato la capsula, le ho adattato questo microfono, vediamo un po' se va bene Luca. Già, va bene, il microfono è? Vabbè, la capsula non è l'originale, non lo so di che cos'è, ho guardato mille capsule, ho messo una capsula, il microfono è della CTE, quello esterno, è il microfono della CTE, e poi c'è scritto Lafayette, vabbè, ma sono uguali, e la capsula è una capsula che ho provato e secondo me va bene. Sì, è la grande, ma per me va bene, avanti Robert. Assolutamente bella, piacevole, come piace a me Gianni, non posso dire niente, perfetta. Uno è troppo amplificato, ho detto, sembra che sta parlando da un'altra stanza, non è chiara. Il segnale si è salito, 9 più 15 adesso, poco fa le 9 e 10, non so cosa hai toccato Claudio, avanti a te. Un attimino solo che sto facendo la cosa, mi sto mettendo le cuffie e mi voglio ascoltare. Cosa ti volevo dire? Ti stavo dicendo una cosa Gianni, ma è Gianni, è Claudio. È quella radio che l'altro giorno non riuscivi a fare uscire, quella lì è. E questi marracchini, no vabbè, questo già va bene, io ho messo da parte il... Anzi, volevo fare una prova roba, dai. Perché era parcheggiato, voglio vedere se fa di nuovo il difetto che aveva fatto prima, il Typhoon. Aspetta. No, ti ascolto perfettamente, voglio sentire adesso a Claudio di Muros, hai fatto un passaggio più lungo, voglio vedere se c'è entrata in frequenza, mi sembra leggermente fuori frequenza Claudio. Si è spostato di 1,50 kHz, non è tantissimo, ma col baracchino non te ne accorgi, perché è abbastanza largo il baracchino che ti ascolta, però ascoltando che è una radio più performante, me ne accorgo, sì, leggermente fuori frequenza. Ora ho un po' attaccato il Typhoon, Rob, come mi ascolti? No, ti ascolto benissimo, come prima, non ho fatto differenza. Ah, ok, dai. Dai, facciamo già un po' questo qua, scaldare anzi. Questo posso anche eliminare il beep, vedi? Questa è la radio storica tua, così. Guarda, c'è quella che mi hai dato tu, È un treno, quella radio è indistruttibile, è una bomba, funziona, è una meraviglia. Poi con questo abbinamento, con il microfono che è fatto spettacolare, te l'ho sempre detto, una delle più belle, a livello di baracchini, una delle più belle in assoluto. Gava gava. Avanti Claudio, ho passato il segnale. Sapete quanti watt li posso dare alla 747 di massima? Io non lo so, ma non credo più di 10 watt a memoria, Luca. Non so manco quanti watt stanno, questo apparecchio. Se l'aggancio male lo brucio. Stai attento, guardi, è regolabile la potenza di questo apparecchio. All'interno sì. No, dico, la rete non c'era alto o basso, due stelle. No, ho capito, Roberto. Se c'è un interruttore alto o bassa potenza, due posizioni. No, negativo. No, vabbè, non ti fidare troppo, magari se fai passaggi brevi, ma se fai roba prolungata, magari ti dico che scadono troppo i finali, non credi. Tanto non è che cambi molto a dare 8 o dare 10 a te. Alla finale li cambia tanto, perché scadono, tieni in saturazione. Ok, vediamo se doppio rumore rientrata. Avanti Gianni. Sono rientrato, sono andato in bagno, non ho fatto in tempo a avvisarvi, dai, ho avuto un'urgenza. Dai, adesso come sta andando, chiodo arrugginito, come ti arrivo lì a Muros di segnale? Telefono, scusate un attimo. Poi ce l'ho col 3009, dai, col 3009 e adesso, vabbè, è un aiutino. Ehi, va bene, dai. Va bene, ma Babbo non è più entrato, Claudio. Ho detto Babbo, non è più rientrato in radio. Sono rientrato io. Eia, cava cava. Va bene, dai, comunque salutamelo a Babbo, va bene. Avanti Robert, riprendi. Eia, no, mi sono dovuto staccare un attimino, ho risposto al telefono mia figlia. Ok, cosa volevo dire, Claudio, ma puoi abbassarla appena con la radio e tutto? No, non troppo, come hai fatto prima, appena. No, non è cambiato più di niente, quasi uguale a prima. Ti sento, il telefono leggermente fuori frequenza. Vabbè, loro magari non se ne accorgono, però la voce non mi piace, non è naturale. Sembra che stai parlando da un'altra stanza, non sei indirizzato sul microfono. Sembra che sei dentro un tubo e fa tutto un rimbombo. Una modulazione non è piacevole, diciamo, è stancante. Se ascolta, ti sento, riesco a capire quello che dici, però è fastidioso. Se ti ascolto prolungatamente è un po' fastidioso. Comunque, dai, non ho problemi. Se c'è mai modo di utilizzare l'altro, quello più grande è meglio ancora, così è meno. Ti entra nei timpani, c'è una cassa altoparlante a fianco a me all'orecchio, ma mi spacchi i timpani. Ha messo più basso. Ti ha abbassato. Ma no, ho tutto o niente, adesso l'hai abbassata troppo. Ti sei abbassato. Che da arrugginito, ti sei abbassato di colpo, poi ripreso e poi ti sei abbassato di nuovo. Cosa stai combinando? Allora, una domanda, Claudio, con l'apparecchio sicuramente c'è il Mickey Gain separato, o sbaglio? Cla, a che quota seguo questa radio? Quante ne hai? Tra poco fa il museo che ho da arrugginito, tra poco si fa il museo, se ne ha talmente tanti che si può fare anche la mostra. Claudio De Muros, ma il Delta Tune funziona anche in trasmissione, che puoi provare a girarlo tutto a sinistra. Ma scusa, ma se la sta diventando a 12 volte, come fa a darti la scossa? Me lo spieghi. Ma se scatto con i piedi bagnati, è impossibile che ti a 12 volte, cioè dagli 80 volte in su e la senti la scossa, a 12 volte non la puoi sentire, ma che non ci metti la lingua sui due positivi, su positivo e negativo, mi sembra strana una cosa del genere, ma non che non c'è dispersione da qualche alimentatore di 220, non lo so, è impossibile, assolutamente. Allora ferma tutto, quello è a valvole quella radio. Magari essendo una radio valvolare, mettendogli un microfono come si deve, ti dà anche la voce calda, essendo valvolare. Ma a 12 volte con le valvole mi sembra strano, vanno sempre a 220 le valvole. Come mai ti ha la scossa, non ho capito. Allora, sei attento che adesso non mi sono ricordato, adesso pensando, infatti c'ha le valvole passano. sono migliaia di volt, stai attento, sono pochi ampere, sono dei milliampere, però sono tensioni alte, è come una scarica della candela della macchina, saranno 3-4 mila volt di cosa sulla griglia, sulla allora lui cosa ha fatto? Guarda, ha messo la massa sulla carcassa della valvola, l'ha messa sulla carcassa del coso, dove c'è lo schermo, non lo so cosa può aver fatto, per cui i 12 volt col trasformatore interno, cacca, arrivano migliaia di volt, stai molto ma molto attento, non c'è da scherzare, magari non ti ammazzano, però ti schicchieggiano le dita, come diciamo qua a Sassa. Il delta tunnel lo provi prima di andare portante, però sinceramente io non avrei usato radio che tipo la scorsa, ma stiamo scherzando, mettilo prima di andare portante, lo giri per dire a sinistra di 90 gradi, non lo so, e poi provi dall'altra parte e vediamo se c'è differenza, però stai attento che lì ci sono tensioni molto molto elevate sulle valvole, e meno male non si è attaccato a 220, sennò guai, cioè che diventa un albero di Natale poi, Claudio. Boh, mi sembra gappeggiato, gira tutto a destra adesso, boh, non è cambiato niente, rispetto a come l'ho girato a sinistra ha migliorato, però è sempre uguale, non ha cambiato più di niente. Ok, comunque se vuoi un consiglio, spegnere tutto e fai bene gli isolamenti di tutti i componenti che ci sono, le manopoline eccetera, no? Ma va bene che una radio tiri fuori dalla corrente, è pericoloso, dai, tensione in questo caso non corrente. Ok, chi tocca? Gianni e poi Luca. Gianni, ci sei? Nulla, Luca? Eia, cavolo, però volevo fare così, ma sono radio che sono alimentate a 220, così, una 220 so. Eia, mi ricordo avevo una radio che funzionava a 110, se non mi ricordo male, una radio vecchia, Io non mi sono chiamato a me, Luca, a 110, ho dovuto comprare il trasformatore esterno. Lascia perdere, sinceramente, questa va bene per giocare, ogni tanto l'accendi, ma non ti fidare di queste cose, cioè una bella radio, usati l'altra, la solita, questa tienila così, ogni tanto te la fai accendere per tenerla attiva, operativa, e boh, per cui lascia perdere, tra l'altro la modulazione, ti ho detto, non è un granché, per cui se c'è possibilità di utilizzare roba più performante, usala. Ehi, Acla, ma tu hai detto che hai un pony, ma hai il pony di stazione base? K, io avevo un amico che ce ne aveva uno, assomigliano a dei sintonizzatori radio, confermi, di quelli di vecchia era? Ja, sono rientrato, dai, allora, stavo cazzeggiando su di che TikTok. Ma Gianni è rientrato, ci sei Gianni? Eia, ci sono, ci sono. Eia. Allora già, com'è? Pronto sei per questa operazione? Poi lascia perdere. Sto soffrendo le pene dell'inferno, lui. Non sto dormendo più la notte. Dolori allucinanti. Sì, pronto, sono pronto. La borsa è pronta già da 2 mesi, non ti dico altro. La borsa per l'ospedale è già pronta da 2 mesi. Ho dovuto ricambiare la biancheria perché avevo messo i pigiami estivi. Li ho dovuti togliere e mettere quelli invernali. Ancora non mangi già male. Guarda, ieri è morta una mia amica, poi c'era quel male all'utero. Doveva essere operata, poi si è gonfiata la gamba a sinistra, c'era proprio tutta piena di liquido e putrefazione la gamba era, e non ce l'ha fatta. Questa qua è una donna, una donna, nel 71, 51 anni, forte, di quelle ciuffraioli, non ce l'ha fatta, è morta. Cappa. Cosa ti stavo dicendo, Lu? E di Antonio l'hai saputo che è caduto? Antonio è venuto anche papà. Sì, lo so. Io lo so, è caduto lì vicino alla gradia. E cosa ha fatto? Antonio è un bombolo. Cosa? L'avete parlato in due? Ho detto, era in bicicletta. Molto, va. Ma Antonio è un bombolo, state dicendo? Sì. E cosa gli è successo? È venuto l'altro giorno, è diventato papà. Aspetta, come si chiama il bambino, non me lo ricordo neanche, l'ho visto ieri mi sembra su Facebook. Cosa ci ha fatto? C'è una motoretta, le ha regalato un amico carissimo. Gabriele si chiama. Gabriele, cosa ci ha fatto Momo? È strappato e praticamente lo devono operare un dito, e in più è uscita la spalla fuori, ma sono riusciti a rimettergli la posta. Cazzo, povaraccio, ma cosa è, forse ha preso o si è sbattuto la macchina? Dove hanno praticamente raschiato la strada, sicuramente lui dice dove era Righe, dove l'hanno raschiata lì andando a Santa Maria di Pisa, lì via Solari, hanno raschiato la strada per rifare l'asfalto e sicuramente non lo so cosa gli è successo. Mi dispiace, poverino, cazzo. Ma un ragazzo poi, cazzo, adesso come fa a lavorare? Purtroppo ha avuto anche questo problema qua. E un po' tutte le cose, la moglie che torna a casa con la bambina piccola, non c'ha pane sciume, un casino. Mamma mia, sono situazioni brutte. Poi voi, Antonio è un grande lavoratore, poi di quei ragazzi che dà tutto per la famiglia, per adesso questo bambino piccolino. Vabbè, speriamo si rimetta subito. Ok, e Muros a te. Allora, vuoi sapere la prima cosa, la bella o la brutta? Allora, la bella è che ha avuto, che gli è nato un figlio, e la seconda che è caduto in moto e praticamente si è fratturato un dito, lo devono operare, e in più è riuscita la spalla fuori, ma adesso gliel'hanno rimessa a posto, adesso vediamo un po', le avranno fatto il bendaggio alla Desur sicuramente. Ma telefonato proprio venerdì, cazzo, ci siamo sentiti venerdì, mi ha chiesto un consiglio per la moto, ho detto lascia stare, non toccare niente, lascia tutto così, mi cazzo sembra fatto apposta, mi dispiace, dai. Il figlio comunque è nato alla moglie già, le è nato un figlio, no, non credo, comunque è una bella notizia, sono contento, è una bella coppia, si vogliono bene, per cui speriamo che continuino così a volersi bene e stare soprattutto tranquilli e sereni. Di nuovo a Luca. Luca, aspetta che c'è qualcuno sotto, chi è avanti che vuole entrare? Ciao amico, mi hai sentito dopo tanto, in compagnia mia c'è Claudio Lamuro, se non so se lo ascolti, c'è Luca e Gianni, facciamo partire da Gianni e poi vediamo tutti gli altri. Vai Gianni per Mirko. Ciao Mirko, mi hai sentito, cordialità, stazione doppio rum, avanti. Va bene, ti sento bene anch'io, dai. Vediamo se ti ascolta Claudio Lamuros, che è quello un po' più sacrificato. L'hai ascoltato a Mirko, Claudio? Mirko, l'hai sentito a Claudio Lamuros? Claudio non ti sente, comunque ti ha salutato Mirko, purtroppo ti c'è stato usando un'antenna, una mezz'onda, con la cicottave sicuramente riusciva a tirarti fuori. No, io ti ascolto molto bene, sempre il 6-9 il tuo segnale, con la cicottave lo superavi, arrivavi quasi 9-10. Vediamo Luca, credo di sì che ti ascolti anche lui. Avanti Luca per Mirko. Ciao Mirko, mi ascolti? Guarda un po', si è cambiato qualcosa Mirko, dai, guarda un po'. Non ho capito dove c'è un disturbo adesso, boh. 9 Luca, da 7 a 9 sei passato. Ah ok, Santiago 9, ok. Cazzo, con Gianni ho il typhoon, si è spostato al 23, lo sento chiaro. Cosa? Con il typhoon, mi sono spostato al 23, a salute a Gio Maria Attore, ti sento chiaro, tu parlando qua, ti sento al 23. Strano, perché questo qui è nuovo l'apparato, l'ho comprato dalla fabbrica. Non penso che sia il mio. Giuro, con questo non ti sento, con il 3009, ma anche no. È una bombetta, invece col typhoon ti sento chiaro. Perché sono maracchini, anche io per dire, se c'ho il Royce, se c'è il Royce attaccato sento gli splatter, se invece attacco 3009 o il Galaxy non intendo più. Va bene, avanti Claudio, ci sei? Sono agganciato dai con il 747 e ho rimesso il 3009, però il 3009 è un bisciu, no? Guarda, è che non ha il disifattore, però del resto è, secondo me è superiore al typhoon. Vabbè, è una radio di generazione più recente, per cui tutte le migliorie che gli hanno fatto, però la modulazione è bella quanto l'altro, il typhoon niente da eccepire, questa è bella uguale. No, ma poi è bello che questo non prende colpi. È più selettivo, è una radio migliorata. E Mirko, come arrivo io dalle tue parti? Quelle robe? No, Mirko, sto chiedendo, come ti arrivo di lì ad Alghero? Ma ti riferisci a me o a Luca? Con chi stai parlando? Sì, i segnali lo terranno a me, il rapporto o a Luca? Non ho capito. Quindi S9 arrivo, dai, va bene, dai, non c'è problema. Diciamo, per Alghero sono abbastanza aperto. No problemi, facciamo riprendere al carissimo amico di Muro, su Claudio Attelmaic. Ehi. Ma tu Robe, con quanti watt stai uscendo adesso? Sempre 10, io non so, poi vabbè quei picchi su supera, però la potenza effettiva sono 10 watt. Ma poi come scala va a 50? No, non ci arriva, con i picchi magari ci arriva, con i picchi di modulazione, però la portante fissa sono 10 watt, io mai li tiro il collo. L'FM questo sì che spara forte. Questo che apparecchio è questo che stai usando? Il K, è il solito mio. Ma il 400, il 40? E io. KK. Sì, no, no, già vanno, no, quelli vanno più forte, già vanno più forte a tutti i lì, che io c'avevo 140 e saliva di brutto come scaldato. No, no, 140 sì, come più scaldato è più, però no, il 440 tu lo accendi adesso, tra mezz'ora la potenza non cambia niente, è perfettamente uguale, non cambia nulla. Il 140 cambia tantissimo, non ho mai capito per quale motivo, comunque quando si stabilizza termicamente, dopo una mezz'oretta vedi che qualche watt in più te lo tira fuori, no, no, questo come schiacci arriva a piena potenza. Puoi mandare a telare una scheggia, in FM non ne parliamo, in FM ti tira più di 100 watt questa radio, in AM io non lo so, non l'ho mai tirato, ma penso che arrivi un'ottantina di watt. Avanti Alghero. Cappa, cosa c'era che i master tu? Cappa, dai. Andave. Robè, riprendi Luca. Robè, riprendi Luca. Ciao da Ruginito, riprendi tu. Ci siamo visti quando è sabato con Claudio, sabato e ieri ci siamo sentiti nelle bande radioamatoriali, siamo andati di là tutti insieme, c'era una bella compagnia a Saccaggia, siamo stati benissimo, si è mangiato a Ufa, è uscito dagli occhi e poi lui domani è andato a fare il giro con le macchine d'epoca, non so dove è andato, forse Itri con le donne lì e basta, ci siamo sentiti ieri sera, forse era un po' stanco, non lo so. Su 10 anch'io sono da un po' che non lo sento qua, probabilmente è più impegnato nelle altre bande, anche io ero da un po' che non accendevo, per dire, accendo spesso, però molte volte quando accendevo non sentivo nessuno, per cui mi spostavo da altre parti, prevalentemente vado su altre bande comunque. Ok, Mirko a te il mic e poi farà girare a Luca. Mirko non c'è, Luca ci sei ancora? Non ho capito, dopo ho fatto l'esame, scusa, non ho capito. Per fare il nominativo. Ma tu a sapere il nominativo o darti la risposta che sei promosso, non ho capito. Il nominativo te lo danno subito, immediatamente, dopo pochi giorni me l'hanno dato, ma l'autorizzazione generale, no, viceversa. Sì, no, il nominativo me l'hanno dato subito, l'autorizzazione generale ci ha messo un po' più di tempo. Ma l'hai presa la patente o no? Non ho capito. Ma tu dove hai fatto l'esame? Come privatista conto tuo? Quindi eri in questa sessione del 21 del 22 di novembre. Complimenti e tanti auguri, non lo sapevo, quindi una persona nuova in bande radioamatoriale. Sono contento veramente, dai. Veramente contento perché qualcuno l'hanno bocciato, su 9 l'hanno bocciato 4, tra cui un carissimo amico che entra qua in mezzo. E ne hanno promosso altri 5 di Alghero. Tra l'altro uno, forse uno era di uno di Porto Torre, qualcuno di Alghero, un altro delle donne di Sace. Sono contento veramente. Che domande ti hanno fatto, Mirko, per curiosità? Cosa vuol dire non è capitato? Perché non te ne avete la voce le domande? Parla l'inglese, Robè, si ascoltalo. Sì, ho capito, sei madrelingua ma parli perfettamente l'italiano e non sono riusciti a spiegartelo. Vabbè, l'importante è che sei passato, sono contento. Adesso subito fai la richiesta nominativa, ti arriva immediatamente, subito ti arriva la patente. Una volta che hai la patente, poi te la danno immediatamente la patente, se c'è la banca da bollo ti arriva online. Dopodiché fai la richiesta di nominativo, teoricamente dovrebbero dartela loro con le nuove normative, però a me me l'ha data da Roma perché non erano ancora operativi per i collegamenti via rete. E poi l'autorizzazione generale, l'ha fatto subito, immediatamente, nominativo, me l'ha dato il giorno dopo, immediatamente, ha telefonato e me l'hanno dato. Ti consiglio di iscriverti a una sezione. C'erano anche degli amici di Alghero, sabato scorso, tantissimi radioamatori della zona di Alghero, che li ho conosciuti di persona, qualcuno lo conoscevo già. Se ti devi iscrivere alla sezione di Sassa e vale qualche informazione, Fabrizio è il presidente, poi ci sono tutti gli altri, se vuoi eventualmente informazioni, siamo tutti amici, è una sezione che piano piano sta cercando di migliorare e fare qualcosa di nuovo, con le nuove persone che sono venute anche l'altro giorno, sono ritornate altre tre dei vecchi radioamatori, diciamo, che non partecipavano. Se no ci sarebbe eventualmente l'altra sezione, se uno per comodità vuole andare con l'altra, no problem. Ti consiglio appunto di iscriverti, poi quando ti metti tutte le attività di coso per portare i collegamenti, se ho un book di stazione digitale come l'ho fatto io, e dopodiché se ti vuoi iscrivere a QRZ c'hai dei vantaggi quando fai per farti arrivare le QSL eccetera eccetera. Ok, a chi tocca adesso qua? Claudio De Muros. Amico, tanti auguri da parte di Claudio. Dimmi una cosa, ma perché madrelingua? lingua, tu dove sei nato? E dove sei nato? In un altro paese anglosassone. E io c'ho un amico che è proprio lì, adesso lui lavora in ambasciata, è un coso, lo fa per lavoro, è proprio di lì, no, forse a Pretoria, mi sembra che sia. Pretoria è in alto come coso, come quota, no, come altezza, elevazione, è alta a Pretoria. E mi ha detto, lui dice, sempre fresco, sempre bella temperatura ideale, la notte è solo raffredda, beh, c'è un'escursione termica, mi ha detto, dopo di 15 o di 20 gradi, dalla notte al giorno, la mattina per dire ci sono 26, 27, 28 gradi e poi la sera 10 gradi, 9 gradi, è vero questo? E l'ha detto lui, infatti la mattina dalle 6 si sta bene, poi dice la notte c'è freddo, ti devi tappare veramente, infatti quindi non sono bugie quando si dicono queste cose. Ok, vediamo se Luca è rientrato, se no riprende Gianni. Sì, tanti auguri anche da parte mia, allora dai. Un buon radioamatore su 525. Come sei organizzato con radio? Mi hai detto che c'avevi 757, l'avevi sistemato poi Mirko. Quindi organizzati bene con le antenne, tutte le VHF, qua abbiamo la stazione, il canale monitor a 525, 195, 525 e 433, 550 per le U. C'è sempre qualcuno, c'è da divertirsi, si fanno anche esperienze di gente qua un pochettino più preparata, ti dà qualche informazione, perché c'è sempre da imparare in ambito radio, c'è sempre da imparare da qualcuno, ne sa sempre qualcuno più di te, eccetera eccetera. Poi piano piano se ti metti anche qualche filare come ho fatto io, ti fai anche il collegamento anche carino, poco fa mi proprio che non l'avevo mai fatto, ho fatto la Groenlandia in 20 metri, è stata una bella esperienza, arrivava molto molto forte, 9 abbondanti, 9 più 10 fa arrivava, e mi ascoltava anche bene. Io stavo andando con una semplicissima verticale, col dipolo non arrivava fortissimo, ho messo la verticale e ho sparato bene, mi ha dato un rapporto superiore a 9 plus. Sì, è tanto una cosa abbastanza economica costruirlo un dipolo a mezz'onda, non c'è problema, ci sono tantissimi progetti, se è in rete che anche qua tra amici qualcuno magari eventualmente te lo può dare, se è operativo, se c'è la possibilità di diversificare anche i tipi di radiazione, per dire io c'ho una verticale e più c'ho il dipolo e poi c'ho un altro tipo di antenna, a seconda delle situazioni vedo cosa utilizzare, non è un impianto importante, però nel mio piccolo mi sono divertito, ho fatto qualche bel collegamento, l'ho fatto, naturalmente c'è sempre da migliorare, c'è un'antenna bella grossa da piazzare, quella lì, però ci abbiamo un po' di tempo, naturalmente bisogna farmi aiutare da qualcuno perché è un'antenna importante, autorizzata eccetera. Ok, vediamo se Claudio Ramuroso c'è ancora, avanti Claudio. Ma non lo so, aspetta, molte volte ci sono anche gelosie, non andare lì, non fare lì, cioè quelli che sono di quella zona si usano quell'altro ponte, i ponti sono liberi, dovrebbero essere utilizzati da tutti, però molte volte qualcuno preferisce non entrarci, c'è una bella posizione quel ponte, anche se io prevalentemente uso quello di Coso, anche Monterasu, naturalmente Monterasu è spettacolare come copertura, però c'è quello di Fiume Santo 762.50, no 662.50, quello c'è una copertura spettacolare, ci sono questi amici di Imperia, di quelle zone lì, arriviamo in diretta, cioè utilizzando quel ponte lì, loro ci ascoltano, non dico sempre, ma molte parti dell'anno, in molte giornate dell'anno riusciamo a farci sentire. Adesso ho montato una verticale, 9 elementi direttiva, puntata proprio su quelle zone lì, se riesco a attivarlo frequentemente, quel ponte che c'hanno loro a Imperia, che mi sembra sia 800-900 metri, e più c'è il ponte più importante d'Italia, quello delle Alpi Marittime a 2400 metri, che quello è un ponte che copre quasi tutta la penisola sino a Napoli, da su, dal Piemonte sino a Napoli, c'è una copertura da paura, arriva in diretta certe volte, per cui bisogna soltanto provare e cercare di migliorare le condizioni. Ok, Gianni a te il mic. Gianni ha mollato, Luca vediamo se c'è ancora. Non ha mollato Gianni qua, dai, lo devo ribirare il microfono. Tu non c'hai sempre il palmare già? Sì che c'è il palmare, ma io il palmare lo appendo, c'ho la... che cosa per appendere? Ti faccio presente che io ho un mobile, attaccato al mobile dietro la porta di dietro del mobile c'è l'appendi microfono, lo appendo lì, poi quando mi chiamate lo riprendo in mano. no, te lo fai Bluetooth il coso, la radio. Ci sono nuovi apparecchi di nuova generazione, sono Bluetooth anche col telefonino, te lo tieni a casa e ti metti a modulare via Bluetooth. No, via Bluetooth quando ce l'hai vicino, però in remoto. No, mi piacciono queste cose, a me mi piacciono più le cose di una volta. Non mi piacciono, non sono good tecnologico e robe. Sì, lo uso Bluetooth in macchina, per il telefono, queste cose qua. Ogni tanto per ascoltarmi le canzoni che faccio, però non è che lo uso più di tanto, lo uso per il karaoke. Sì, no, sto facendo battuta naturalmente, anche a me piacciono le cose con il pulsante, le manopole, i tazzini e tutto. Adesso c'è la moda qua delle FT8, tutti stanno andando in modo digitale, schiacci, ti appare il classe con tutti gli elenchi delle trazioni, tu scrivi, schiacci un tasto, neanche scrivi, trasmissione, gli vuoi scrivere CQ, tu gli scrivi CQ e poi 7-3 gli hai risposto, finito il collegamento, ti colleghi tutto il mondo con estrema facilità perché sono segnali con pochissima potenza, ti giri tutto il mondo. Senza bisogno di avere, utilizzano una banda talmente stretta, più piccola anche del CW, per cui fai chilometri e chilometri, migliaia di chilometri con 2 watt, riesci a parlare in certe condizioni anche con pozzi dall'altra parte del pianeta, dalla parte opposta, per cui come cose sono quelli che mi piacciono le radio, con i manopoloni grandi, possibilmente con degli strumenti, ma come si chiama? È alimentatore incorporato, neanche a vedere gli alimentatori esterni mi piace. E muro su a te. Buonasera, facciamo prendere a Mico, ancora qualche minuto che poi vado a mangiare. Mico, a te il mic. C'è qualcuno che ha salutato. Buonasera, prego. Avanti. Oh, buonasera a tutti. Padre Roberto, Gianni e l'altro che non sento. Avanti pure da Mario Porto Torres, a te Gianni. Cappa, dai, ciao Mario, ben sentito e cordialità anche a te, dai. Sono in compagnia di Roberto, di Chiodo Arrugginito da Muros, c'è l'amico D'Alghero e poi mi pare che c'era anche Luca, ma si è allontanato, non so se sta se si è rientrato. Va bene, ma per chi vuoi e niente, dai, buonasera. Riprendo io, dai, Mario, mi ascolti, penso di sì. Una domanda Mario, ma tu sei il Mario che ha preso la patente? Ma ci siamo visti per caso, tu c'eri quando c'era una sessione di lezioni, io sono venuto, c'era un Mario, sei tu quel Mario che c'era presente quando sono venuto io? Sì, sono io, ci siamo ripresentati, dai. Sì, c'ero, non ne ho perso una da quando ho cominciato, quindi per forza sono io. Io sono venuto una volta, mi hanno chiesto la cortesia di fare, dare un aiuto, dai, quelle piccole cose che potevo dire io, quando c'era Antonio, perché mancava, uno degli Antonio mancava, tu eri in prima fila, o sbaglio, quello con i capelli bianchi o che, vicino a Natalino eri? Sì, capo proprio io, sì, capelli bianchi, vecchietto, sai, ormai, una certa età, insomma, sì, sono io, dai, senza problemi, no, ma è stato interessante comunque, perché... Comunque anche delle opinioni sugli esami è stata una bella cosa positiva e comunque rispecchiava molto la realtà, perché quando ho fatto l'esame alla fine ci ho pensato e guarda come proprio me l'ha fatto raccontare. Fai pure. Ti ringrazio. Ok, no. Sinceramente mi immagino diversamente come persona, adesso sto collegando, c'era un Mario davanti in prima fila, no, sono contento, dai, sempre poi quando sono persone nuove fa sempre piacere. Adesso attrezzati, come diciamo là, noi qua a Sassari, metti tipo qualcosa almeno per iniziare, come ho fatto io qualche antennina, inizi magari prima di tutto le VHF e le UHF per partire senza grosse spese e poi mettere un affilare, una cosa, se c'è la possibilità, va sempre bene, dai, mi dispiace per Natalino purtroppo. E non è andata bene, ho detto ritentaci perché è sempre bene se c'è la passione portarla avanti. Ok, e poi quello che c'era dietro, c'era un Antonio, un ragazzo Antonio, confermi? Sì, capo, anche lui promosso, Allora io quel ragazzo, io lo conosco, mi ha salutato, come che ci conoscevamo bene, però non mi ricordo io dove l'ho visto, perché lo stavo confondendo con un'altra persona, però a meno che non siamo andati in qualche pranzo o cena di radioamatori o qualcosa del genere, quello è un SWL quel ragazzo, cosa faceva? Perché il 27 io non l'ho mai sentito. Allora, io naturalmente chiedo scusa per il pinpocchio, perché magari io di altro non mi sento, solo Gianni, Malghero, il muro proprio, ho un QRM che è impossibile superarlo, diciamo così. E niente, poi c'è stato Marco mi ha anche lui incappato su qualche errore, quindi non Sì, grazie Mario, del Mike. Ok, facciamo riprendere la più lontano, iniziamo da Dalghero, avanti Mirko, anche lui ha preso la patente insieme a voi, però ha preso privatamente. Avanti Mirko, ci sei? Facciamo girare adesso il giro, il secondo giro a Claudio Ramuro, se poi riprenderà il Mike Gianni. Vai Claudio, sei K, ti saluto, ti auguro una buona cena, anche adesso chiudo con questo passaggio, salutami tutti in casa, buona serata e buona giornata per domani. Ok, saluto di nuovo Mirko e Mario da parte di Claudio che non vi sentiva, comunque vi saluto io da parte loro, da parte sua, perché non c'è problema. Mario, organizzati poi, tanto te l'ho detto, come l'ho detto anche a Mirko, 145.525 la frequenza monitor delle UHF e 433.550 l'altra frequenza nelle UHF, semplicemente anche con una piccola radio, una piccola antenna, riuscirei a farti sentire. Io vado in QRT, vi saluto di nuovo facendo il giro da Mirko, Mario, Gianni, Luca, Claudio, eventuali SWL. Io concludo le trasmissioni, adesso vado a mangiare. Ciao ciao, QRT. Ehi, dai, ciao Luca, ciao, che da Ruggidito, ciao anche a te Robè. Avanti Mario. Ciao, saluto anch'io gli amici che sono andati in QRT, non mi sentiranno sicuramente io, con questa piccola stazione, guarda, mi sono arrivare in amore, se la chiedo, guarda le frequenze, sì, adesso avrò tempo anche di guardare il giardino, ti confidano qua intorno, però sinceramente non lo so, io mi sono ancora organizzato, e a parte che devo ancora ricevere la patente, quindi da qui un paio di giorni sicuramente mi darà, poi ovviamente perché non sia nominativo, ma anche perché non si può nemmeno dichiarare, quindi ci vorrà un pochino di tempo, prima che eventualmente ci possiamo appunto sentire su determinate frequenze. Ti saluto comunque, buona serata, se per quelli di buona cena, ma vi ascoltate alle prossime, anch'io comunque. Mi concedo, grazie delle tue chiacchiere, anch'io vado, diciamo così, verso a mettere i piedi sotto il tavolo, come si dice, no? E quindi ci sentiamo eventualmente prossimamente. Gianni, di nuovo per te, mi vediamo più tutti a Sardegna. Buona serata anche a te, non so se hai mangiato, che ci chiede di andare a mangiare, in quel caso, buon appetito. Scappa dai, no, non ho mangiato ancora Mario, dai, dovrò andare a preparare qualcosa, aia, perché la mia compagna è scesa giù col cane, quindi comincerò a avviare la cena, dai. Scappa, ti saluto, ti volevo fare una domanda, ma di Sassari qualcuno è passato o no? Allora Gianni, devi andare un attimino se riesci, ti sento, ho iniziato un 49, guarda, io non lo so, se quasi tu fatti che mi stanno accendendo, c'è qualcosa che mi disturba, io non riesco a capirlo, c'ho un RN9 e sto facendo fatica a tirarmi fuori, che di solito arrivi benissimo, guarda, incredibile. Se riesci ad alzare appena appena per farmi la domanda, perché ho capito che i tuoi problemi sono di più, e tu? Sì, capa, forse così mi ascolti. Ti ho detto, ma di Sassari qualcuno è passato o no? Oh, di Sassari, non lo so, se dicono a Sassari pure una volta. Fammi fare allora, di Sassari proprio c'è la Torre, c'è la parte Natalino, ma chi sa, io non li conosco, poi cioè, ci siamo conosciuti qui via che metto in associazione. Non lo so, dunque so che Antonio diciamo delle zone limitrofi di Sassari, però sì, secondo me sono quasi tutti in zone, capito? Perché vabbè, io forse sono l'unico che arriva da fuori, da Porto Torre, quindi di Sassari, proprio Sassari, sono i microfi, sì, secondo me sì, sono passati, certo. Kappa, dai. Va bene Mario, dai, ti saluto di nuovo, grazie per il QSO, ci sentiamo, buona serata a tutti, anche agli ascoltoni, metti SWL. Ciao a tutti. Ciao.